meglio che faccia subito, eh? Attacco subito perché così no. Io non voglio, chi mi seguirà nel dire due parole, aggraveremo, se non per pochissimi minuti, la piacevole fatica, vero, che abbiamo avuto nel seguire le relazioni e le discussioni di questo pomeriggio. E neppure, va bene, vero, ritarderemo il momento in cui si potrà uscire fuori tutti assieme piacevolmente e fruire di questa gentile e cordiale ospitalità che ha dato l'Istituto Italo-Germanico per questa presentazione, per cui ringrazio il professor Paolo Prodi, anche perché il fatto di poter presentare qui in questa sede un libro che è uscito appena da qualche ora, edito dalla Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, sta di avesto a testimoniare qualche cosa che è comune, è ben noto, ma che vale sempre la pena di sottolineare, specialmente in presenza di cari amici studiosi, anche non italiani, il fatto che sul piano degli studi non ci sono né confini tra una società e un istituto, né confini tra una lingua, una gente che parla una lingua e una gente che parla una lingua diversa. È il 26esimo volume della società, della collana di monografie e pubblicazioni della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, che ho l'onore di presiedere. E questo volume è dovuto alla meritoria fatica. Ecco, ho piacere di presentarlo qui perché in nessun altro ambiente, meglio che in questo nostro, si può capire quello che è stato il servizio che il dottor Pasquale Piccini, direttore della rivista di Studi Trentini di Scienze Storiche, e la società stessa presta per gli studi. È un volume di indici, un volume degli indici di riviste o esclusivamente di interesse storico o di prevalente interesse storico che sono state edite, tre nel Trentino, una a Roma, a cavallo del secolo XIX e del secolo XX, l'archivio Trentino, la Tridentum, la Procultura e l'archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino, vanno dal 1881 fino al 1914. Sono indici analitici compilati di Romelio, di me l'autore, indici compilati per autori e per materie, per luoghi, e sono, come mi sono permesso di dire nella breve presentazione scritta, sono utilissimi anche per un altro motivo, perché queste riviste sono di difficile reperibilità e di difficile consultazione, e qui alla fine distribuiremo a tutti i convenuti una copia, una sola, ma una la daremo, vero, in omaggio, vero, a tutti i convenuti, sono di viste di difficile reperibilità e così ciascuno potrà, vero, avere a casa uno strumento, vero. E è la fine o quasi la fine del seminario di studi di storia medievale, anche questo mi è gradito mettere in rilievo come in quel momento la storiografia trentina, gli studi storici trentini, più che all'epoca contemporanea, si rivolgevano con molto maggior interesse a quelli che erano gli accertamenti, le indagini riguardanti proprio il Medioevo, e pertanto anche per gli illustri relatori e per i convenuti a questo seminario penso che sia un dono e un omaggio che è direttamente riguardante il settore di studi storici. Un'ultima cosa vorrei aggiungere. E qui appaiono, me li ero anche segnati ma non voglio dilungarmi, i nomi di coloro che hanno in sostanza avviato quella che, non immodestamente e senza pretenziosità localistica, potrei proprio dire una piccola scuola storica trentina. Qui appaiono i nomi del professor Cesto, di Francesco Ambrosi, vero, di Carlo Battisti, dello stesso Cesare Battisti, di Brentari Ottone, del professor Cicolini, di Gerola, di Vigilio Inama, del Marchetti Lirio, ecco, questo è più rivolto alla storia del risorgimento, il nome dell'illustre professor Francesco Menestrina, un giurista non di secondo piano che aveva iniziato ad insegnare anche all'Università di Istria, poi divenuto avvocato generale dello Stato, di Paolo Orsi, di Ferdinando Pasini, il nome di Pedrotti Pietro, del linguista, geologo, Quaresima Enrico, di Onestinger, di Reich Desiderio, che tutti loro sicuramente conoscono, di Don Simone Weber, anche lui era accuratissimo ricercatore anche nel settore della storia dell'arte, di Augusto Chandonnat, di Valenti Silvestro, e non vorrei dire che qui è riunito tutto quello che è il contributo che gli storici trentini mi hanno dato, ero a cavallo dalla fine del secolo XIX in questo secolo XX. E per chiudere voglio dire anche che molti di questi che ho nominato e che hanno dato la loro collaborazione a queste riviste sono stati quelli che hanno fondato la società, ero di studi trentini di scienze storiche, molti sono quelli, sono anche questi, tra questi molti sono quelli che ci hanno tenuto a baglia da un punto di vista di avviamento agli studi, Monsignor Weber, io sono certo che anche Monsignor Roger lo ricorda, come lo ricordo io, Chandonnat, come tutti quanti. C'è questa continuità della quale veramente davvero siamo lieti. Io ringrazio sentitissimamente il direttore della rivista Pasquale Piccini, perché credetemi è stata una fatica, e lui lo dirà meglio di me, tutt'altro che indifferente, ma è un dono agli studi storici che egli ha fatto, che va veramente apprezzato. A nome della società ti ringrazio. Grazie. Dopo quello che ha detto il professor Corsini, penso che ci sia poco da dire. Forse è il caso di giustificare l'uscita di un volume di questo genere, e parto subito dal fatto che la Società di Studi Trentini aveva pubblicato nel 1956 un indice delle annate della rivista che andavano dal 20 al 56, compilate dal povero professor Morelli, deceduto recentemente. Io ho avuto l'incarico dalla società di compilare gli indici della nostra rivista dal 1956 al 69. Forse mi sono entusiasmato a questo lavoro certosino, tanto che, essendo stata riconosciuta in sede di società la necessità di avere sotto mano gli indici di quelle riviste che qui sono citate, che ha detto il professore, cioè l'Archivio Trentino, la Tridentum, la Procultura, l'Archivio Storico. Se noi pensiamo alla mole di contenuto di queste riviste, se pensiamo che l'Archivio Trentino è stato pubblicato per 29 annate, e quindi avendo in una biblioteca una lunga teoria di libri, di riviste, che non si possono utilizzare se non scartabellando indice per indice, anno per anno, e quindi di difficilissima consultazione, se pensiamo che la Procultura ha avuto 15 anni di pubblicazione, la Tridentum 15 anni, la Procultura 5 annate, e l'Archivio Storico Trentino ha pubblicato 4 volumi di annate che vanno dal 1821 al 95, noi pensiamo alla gran mole di contenuti che avevamo, inutilizzati o perlomeno difficilmente utilizzabili. Ecco che allora io mi sono assunto il compito, da buon pensionato, di dedicare 3 anni di lavoro a questa compilazione, che risulterà certamente di grande utilità non solo agli studiosi, come sono qui convenuti per queste settimane, ma anche a coloro che in futuro vorranno preparare o tesi o ricerche di qualunque genere, e penso che quando lo avranno in mano e si troveranno il loro lavoro facilitato, penseranno anche ai meriti, non tanto miei quanto della rivista, della società che ha voluto che questi indici apparissero. Era una lacuna, non c'è dubbio, era una lacuna questa. Noi conosciamo, perlomeno conoscono tutti, e penso la conoscono anche gli amici d'Oltralpe o di Bolzano, la bibliografia dell'Argaioli è una ricchissima fonte che riguarda tutti i libri pubblicati sulla storia trentina dal 1400 fino al 1903. Però in questo periodo ci sono molte di queste riviste che hanno grandi mole di materiale che sarebbe stato utilizzato. Questo viene a completare, secondo me, una lacuna, cioè a continuare il lavoro dell'Argaioli, senza con questo mettermi sullo stesso piano di cultura del Filippo Largaioli. Se qualche giovane poi volesse cimentarsi e dedicare qualche ora, qualche parecchie ore, ci sarebbero altre riviste da compilarne gli indici, la rivista della società Rododendro, la rivista del Tridentina, la San Marco, ce ne sono delle altre. Se qualcuno vuol mettersi, lo fa, lo può fare tranquillamente. Magari perché... ancora tu. Non so, ma comunque vedremo. Mi preme per dire il criterio al quale io stesso avvicinato. Ho detto, è la continuazione, anche nella forma tipografica e nella forma di contenuto, degli indici della nostra rivista di Società di Studi Trentini. E vorrei solamente dire una cosetta per illustrare i criteri soggettivi ai quali mi sono informato. Per esempio, qui dentro si troveranno tre voci che in nessuno degli altri indici sono stati trovati. E qualcuno potrà dire, ma queste poteva anche lasciarle fuori. Mi riferisco per esempio alla voce genealogie, alla voce, che so, statistiche, alla voce illustrazioni. Io ho segnato tutte le genealogie, anche le minime genealogie, delle famiglie, di mano in mano che le trovavo nei vari articoli. Ho segnato tutte le illustrazioni che compaiono in tutte queste riviste. Perché questo? Perché qualche volta si ha il bisogno di dire, ma è possibile trovare il ritratto del tal autore che si celebra? È possibile trovare la tale illustrazione? Ci sarà, invece di far scartabellare tutta la mole delle riviste che sono disposte nelle varie biblioteche, basta scorrere le due o tre voci che io ho citato adesso e avremo sotto mano del materiale utilissimo per quanto riguarda le illustrazioni, le genealogie anche di minime, e penso che con questo mi aver dato anche un'impronta un po', diciamo, personale, soggettiva a questo lavoro, che sia accolto bene o male non so. Certo, chi ama lo studio, chi ha bisogno di studiare o di ricercare, penso che questo libro lo manipolerà molto volentieri. Due sole parole da ultimo me, per ricambiare i ringraziamenti e per esprimere una gratitudine non formale ma sostanziale alla Società di Studi Trentini e al suo presidente professor Cortini per questa occasione che vedo offerta di inserimento all'interno di una settimana di studi dedicata alla storia medievale e la presentazione di un volume che appunto proprio anche nella sua qualifica di servizio si presenta però quello che sono stati anni di cultura trentina così, che vengono offerto, diciamo, ad una consultazione più ampia di quella che non potesse essere passata certamente per meno di questi comuni. E quindi in occasione, oggi, nel passaggio della relazione di Roger a questa presentazione, tutto è stato, direi, particolarmente felice, direi che è venuto proprio in continuazione, in modo molto naturale e molto spontaneo, per sottolineare questo legame sostanziale appunto tra quella che è la cultura locale, tra quelle che sono le radici, molto profonde, molto al di là nel tempo della cultura trentina e quelle che sono, diciamo, le nostre aspirazioni di oggi, di rinnovamento culturale, di ampliamento e di intenzione di Trento nell'ambito di una cultura, diciamo, di tipo universitario, eccetera. Il che appunto non deve avvenire e non può avvenire con una scissione, con degli strati, con delle cesure, ecco, ma deve avvenire proprio in questo tipo di rapporto che mi pare estremamente fertile tra la tradizione intesa nel senso più vivo e l'innovazione nel senso appunto della volontà, ecco, di modificare le cose in modo da far sì che la nostra cultura sia sempre il più possibile inserita in un discorso più ampio, attuale, e appunto il discorso europeo che stiamo portando avanti in questo seminario, sostanzialmente. E quindi, così, un grazie particolarmente forte, nella misura in cui anche questo volume, proprio richiamando tra l'altro un'epoca in cui la tradizione culturale trentina era anche inserita in quel contesto così di una cultura, di una società mitteleuropea, insomma, ecco, che la vedeva, insomma, ecco, tra gli interlocutori di un campo più vasto, si trova oggi proprio in termini limitati, con direi al termine di questo travagliato processo storico, insomma, a riprendere appunto direi le nostre radici. Grazie. Buon programma, ho chiesto solo per impeto spontaneo il Cido Begna, un attimo solo la parola. Primo, perché qualche volta, compiendo lavori noiosi di compilazione, anch'io in cuor mio ho sentito che l'unica consolazione è veramente pensare che questo lavoro a qualcuno accorcerà la strada, aiuterà un poco, eccetera. Quindi, ponendomi nella posizione di chi ricerca, caro dottor Piccini, io lo dico per primo il nostro bellissimo dato. Poi mi è venuto anche in mente, riferimento a quello che l'autore Prodi diceva, che proprio certamente in quel volume ci sono dentro anche i nomi, per esempio, di Volterini e di altri. Cattoli molto veloce, dove veramente noi formavamo una comunità di studi e di ricerca della quale ancora beneficiamo, questo concretizza questo discorso. E quando la giornata di oggi termino dicendo che è stata celebrata con piedi in un dialogo dove questa mattina il professor Riedmann da Nisso ha aperto questo discorso. E insomma è stato impattato insieme come raramente accade, e anche di questo, e a professor Riedmann in particolare, rivolgo l'attenzione e la riconoscenza. Allora andiamo fuori. Se l'avessi avuto 2 mesi fa, mi dava.